Era tutti, era tutti, era Cucitti, era Cucitti. Vai, signor Battista. Buonasera, mister Antonello. Tutto pompante, sì, stasera, io via. Anda bene meta. Ci devo venire, Antonello, a trovarti. Quello è torna molto. No, da butto, dai. Lo sai quel baracchino che mi hai detto tu? L'ho cambiato trasformatore. Gli ho messo il TL. E funziona. L'ho regalato a Leoncino, l'ho regalato, che è la stessa baracchina. Lo Zodiac famoso che mi ha portato a casa. Chi l'ha regalato? A Giuseppe Leoncino. Ma funzionava, sì, Antonello. Ripeto, 10 minuti, un quarto d'ora, poi si fermava. E c'era il trasformatore bruciato. Come l'ho acceso, me ne sono accorto subito. Ho preso, gliel'ho cambiato. Gli ho messo il PL, e al primo colpo ha funzionato. Giorgino, Batti, io sto chiudendo con i sacciamenti. Andate, ci sentiamo domani se va tutto bene. Ciao Antonello, ciao Battisio, ci risentiamo. Ehi, ciao Tole, buona serata, sotto la signora, domani. Vai, vai. E anch'io poi di giri, poi arrivato anche per me. È così Antonio, avanti. Ehi, ciao Sabato. Ci sentiamo, L'unica cosa di quel baracchino mi ha fatto impazzire a metterci il trasformatore, perché c'aveva 3 cavetti, e quindi c'aveva 15 furi, figurati tu. E ha infilato i cavetti del trasformatore, dovevo prendere la Mirac, con calma. Figurati, un casino era, se entravano 3 non entravano gli altri due. Allora piano piano con pazienza. Ci ho messo il trasformatore nuovo. E ha funzionato subito. Era male. Però c'è bene, la verità c'è bene. E quello lì dava 6 watt stava dando. Quello lì dava 6 watt, Antonio. Sì, l'ho visto. 6 watt le dà anche a Giuseppe. Infatti ce l'ha a casa, gli ho regalato, ho detto, intanto che sei senza baracchino, ti regalo questo, ho detto, me lo usi e parli la casa tua, perché c'aveva il mio, FM500S, e non gli piaceva. Allora, quando ho visto questo, ho detto, portati via questo, tu lo porti a casa, e lo usi. Adesso è bene, ho visto, quando c'era la macchina, voglia. Ah, era portante. Portante senza portante. Va bene, là. Io me ne vado giù perché devo prendere medicina, dov'è? Ci sentiamo. Ciao, stammi bene, buon questione ancora, buon tutto, a domani. Ciao. A domani, ciao.